di qualunque tipo esse siano, le maschere stanno in piedi perché c'è qualcuno che fa così. Si tengono sempre insieme. Questa non se ne può andare se prima non se ne va questo. Questo è quello che genera. Se io sono un padre che faccio paura a un figlio, nasce questo, io lo spavento, lui si spaventa, poi mette la maschera. La maschera non è originaria, è reattiva. Ecco. Però noi quando sentiamo parlare di maschera, dice oddio, non sono veramente me stesso. E come potrei esserlo? Non è possibile. Io posso essere me stesso se io sono libero dal tribunale. Allora la nostra è una cultura dove il tribunale è molto forte, prima viene fuori, da fuori, poi viene dentro, è questo il problema. Quindi la prima cosa da sapere sempre è andare a indagare. Ma c'è un giudizio contro di me? State certi che lo trovate. Per esempio, se uno gli viene un po' di mal di pancia, quello, boh, gli viene anche ai gatti. Ma di sicuro un gatto per il mal di pancia non si giudica. Semplicemente sta fermo, fa così. E aspetta che gli passi. L'essere umano di fronte al mal di pancia lo interpreta. Dice, non dovrei averlo, ce lo dovrei aver così, dovrei avere il mal di pancia a destra, non a sinistra. Questo non è un buon mal di pancia, non è politically correct, questo dovrei averlo quell'altro. Oppure dovrei avere il mal di testa qua, non qui, proprio qui no. E c'è il giudizio, allora sono sbagliato. E quindi il mal di testa viene da un giudizio, che se ne andrebbe se lo lasciasse andare, ma dopo che ho il mal di testa c'ho anche un giudizio sul fatto che non ce lo dovrei avere. È chiaro questo? Di solito no, non lo è chiaro. Anche quando uno crede di averlo capito, continua a praticare almeno altri 30 anni di autogiudizio. Se riuscisse a trasformare quei 30 anni in 30 giorni sarebbe meglio, ma si può fare anche in 30 ore. Allora il giudice interiore non te lo sei installato da sola. Per esempio noi pigs, sud dell'Europa, sapete che siamo dei maiali riconosciuti così, ma non ce lo siamo mica detti da soli, c'è qualcuno che ce l'ha detto prima. E lo stesso, qualunque giudizio tu abbia, non te lo sei fatto da solo, semplicemente l'hai assorbito, te lo sei portato qua. È un'intrusione. Nessun gatto si giudica, nessun topo, nessun verme, nessuno. Siamo solo noi. Liberarsi. Quindi, senti, se hai un giudizio, almeno fallo fino in fondo. Vuol dire che c'hai un accusatore. D'accordo? Bene. Allora io sono convinto che nonostante non sei di Genova e nemmeno scozzese, hai speso poco nella tua vita per avere un avvocato difensore decente. Probabilmente hai l'avvocato d'ufficio che non vale niente, che dice mi rimetto alla clemenza della corte. Quando c'hai un giudice interno, si deve attivare l'avvocato, pagato bene, devi pagare, se no non fa niente, in cui dice le cose come stanno, dice. Ma non al pubblico ministero, perché è ridicolo voler convincere il pubblico ministero. Il pubblico ministero fa quello di lavoro, quindi ti accusa. Non devi andare, signor pubblico ministero, adesso le faccio vedere che ha torto. Ma quello dice, vabbè, insomma. Tu devi parlare al tuo paese e dire le cose fondamentali che il tuo paese deve sapere, cioè che il giudizio di quel tipo, che pulito, puntato, è falso. Tutti i giudizi sono fasulli, tutti, perché? Sapete dire perché? Perché sono falsi. Tutti, senza eccezioni, tutti i giudizi che si danno su di noi sono fasulli. Se capiamo questo abbiamo qualche chance, se no. Perché beh, ma uno potrebbe dire vengono da fuori, ma finalmente lui dice la verità, mentre io sono nella maschera, mi copro e quell'altro finalmente mi toglie la maschera, io sono qui che tremo così. Perché è un giudizio? È falso. Fasullo, va rifiutato, bisogna essere avvocati difensori potenti. Certo, viene da fuori, ma poi dopo diventa interno, quello è il problema. Qual è il movente del giudizio? È questo? O è... Cos'è? Il giudizio viene mosso da... Ci sono due forze, sai, non è che ce n'è tantissime. Guarda. C'è questa, l'accettazione, l'accoglienza, l'amore, e poi c'è l'altra, l'ostilità. Giudizio è frutto di ostilità. Qui c'è l'amicizia. Quattro forme d'amore per i greci. Amore, desiderio. L'eros si chiama. Amicizia, amore, amicizia si chiama. Filia. Poi c'è l'amore fraterno per tutti gli esseri, che si chiama agape, amore fraterno. Perché è diverso dall'amicizia? Perché l'amicizia è l'intimità. Io sono intimo, noi ci diciamo delle cose che non diciamo agli altri. Intimo, cioè non ti temo perché mi fido, tu ti fidi di me, noi ci parliamo e arriviamo fino in fondo, siamo amici veramente. L'amore fraterno può essere anche a distanza, posso essere amore fraterno per un congolese che magari ho mai conosciuto. Ma perché? Fraterno che vuol dire? Che vuol dire fratello? Che? Figlio dello stesso padre e madre. Cioè ci riconosciamo un'identica origine. E in effetti, se siamo credenti, l'origine è Dio. Se non siamo credenti, l'origine è la natura. Non si scappa, Per coloro che sono particolarmente, che sono i seguaci di Spinoza, siamo figli di Dio, cioè della natura. È così a posto. Quindi abbiamo una matrice comune, e questo è l'amore fraterno. Poi ce n'è un altro, questo si chiama agape. Poi c'è il quarto tipo di amore, che si chiama charis, cioè vuol dire amore cura. Amore materno che si prende cura dei figli, dei bambini, dei bisognosi. Quindi l'amore è come un tavolo con quattro gambe. Qui ce n'è tre, ma insomma, se ce ne fosse una quarta andrebbe bene. C'è l'amore eros, senza il quale non siamo vivi. Senza eros, desiderio, quello che fa vibrare di emozione la persona. Poi c'è l'amore amicizia, che è l'intimità. L'amore fraterno, che è la... Cos'è l'amore fraterno? L'appartenenza alla stessa grande famiglia dell'essere. E infine c'è l'amore cura. Visto che sei mio fratello, che sono intimo con te e che quando mi relaziono a te mi prendo anche cura, è ovvio, no? Ecco. Questo è la salute. Come vedi, nell'amore non c'è l'amore giudizio. Puoi mettere amore discernimento, cioè amore conoscenza, sì. Ma il giudizio di cui parliamo noi è frutto di un'altra forza, che non è questa, ma è questa. È questa, è la violenza. Okay? Quindi tutti i giudizi che diamo sugli altri o che diamo su noi stessi sono tutti frutto di violenza. Allora, la violenza fisica, tutti capiscono che produce dolore. Se mi spacco un ginocchio non mi stupisco mica di aver male, anzi è normale. Il male è utile, perché se io non soffrissi niente fisicamente sopravvivo qualche giorno, perché mi faccio male, non me ne accorgo. Lo stesso vale per la psiche. Se io pratico il giudizio, per forza sento male, ma tanto anche. Perché? Perché commetto un errore della mente. Così come se prendo ginocchiate su spigoli di marmo affilati, è ben giusto che ci sia male, no? Lo stesso vale per i giudizi. Se io pratico il giudizio, devo soffrire, è giusto così. È chiaro? Ora, questo è difficile da capire per un'unica ragione, perché ci crediamo tutti ai giudizi. Crediamo, così. Vediamo se per te è vero. Qualche volta ti sarei detta, il giudizio mi serve per essere migliore, per tenermi sulla strada. Discernere? Sì. Discernere non produce effetti negativi, se io discerno provo gioia. Quando il giudizio di cui parliamo noi è quello che fa soffrire. Bisogna capire bene, non è la stessa cosa. Il giudizio discernimento è pratica dell'amore, è conoscenza, c'è amore per la conoscenza, si chiama filosofia, è una forma di amore, eccolo qua. Ma non puoi confondere la filosofia col giudizio contro, violento di sé. Questo è un errore grave della mente, è un grave errore. Quindi, comprendi? E quindi cosa vuoi farai da adesso in avanti? Perché siamo talmente intrisi di quelle autostrade di giudizio che le conseguenze sono queste. E allora lì per te, come per tutte le persone che conosco, non ne ho visto nessuna eccezione, tutti dobbiamo imparare di fronte al giudizio ostilità, perché questo è, visto che ormai ci siamo portati in tribunale, la legge comunemente, dallo Stato di diritto in poi, consente l'esistenza di un difensore. Quindi devi avere dentro qualcuno che sa difenderti. Capite? Perché siccome quei giudizi di cui parli tu sono calunnie, sono ingiurie, non sono giudizi, sono ingiurie, sono malevolenza, allora saper avere dentro un avvocato difensore che qualunque cosa succeda sostiene, perché c'è l'amore, l'amore conoscenza vuol dire che io discerno tra quello che è un giudizio utile. Cioè, un discernimento è una cosa, l'ostilità che si mette nella forma del giudizio è un crimine, una cosa ben diversa, io mi devo difendere dai crimini, perché se non lo faccio, e siccome io sono un capo di governo, non lo faccio, sai cosa sto facendo? Sto tradendo il mio paese. Potrei essere portato in tribunale, questo sì, e giustamente per alto tradimento. Infatti l'Italia, che non sa difendersi dall'Europa dicendo ma di cosa state parlando? Il nostro paese è tradito, la nostra Costituzione italiana è tradita. Ecco, chi ha fatto questo? Forse un giorno dovrà pagarne le conseguenze. Nel frattempo le paghiamo noi. Okay?